Vi voglio rassicurare che nel giro di pochi giorni il decreto attuativo sulla certificazione sarà pronto, è questione proprio di pochissimo, e per testimoniarlo vi dirò anche quali sono i contenuti essenziali di questo decreto su cui stiamo lavorando e forse anche una piccola sorpresa. Questo decreto prevede un meccanismo di certificazione assolutamente semplificato, con due moduli da compilare, uno di richiesta di certificazione del fornitore da inviare alla amministrazione debitrice e uno di risposta, entrambi già precompilati, semplici, dove non ci siano ambiguità in che modo e come si debba chiedere o si debba certificare. Tutto ciò deve avvenire all'interno di 60 giorni. La Consip sta predisponendo una piattaforma elettronica attraverso la quale queste certificazioni e questa semplice modulistica possa essere gestita elettronicamente senza scambi di carte, viaggi o simili. Il terzo, con tale certificazione, sulla base degli accordi con l'ABI, possa essere immediatamente usata allo sconto prosolvendo nel sistema bancario. La quarta è che, in deroga alle nostre procedure e regolamenti ormai vecchi di 90 anni, il credito potrà essere eventualmente ceduto senza atto notarile, senza notifica attraverso ufficiale giudiziario, risparmiando tempo e denaro. Infine, e questo è quello che ci sta ritardando un po', ma penso che lo apprezzerete, e che stiamo studiando, e anzi non stiamo studiando, vogliamo fare in modo che questo processo di certificazione semplificata sia anche la base per la compensazione di crediti e debiti iscritti al ruolo con la nostra Agenzia delle Finanze.